Al collegio, adesso che si avvicinava il tempo degli esami, le ragazze stavano meno insieme. Meno di frequente la sera si riunivano a parlare. Non avevano neppure il tempo di godere della stagione. Dicevano era bello l'inverno, perché allora studiavano quasi per diletto. Adesso, dopo cena, ognuna si chiudeva nella propria camera. Sul muro del cortile si accendevano i rettangoli delle finestre e al tavolo si vedevano le ragazze chine. Il silenzio era perfetto, monotono per quello scorrere dell'acqua nel cortile. Se quello si fosse taciuto, forse la notte si sarebbe alleviata. Oltre il cortile era l'estate. Là dentro una stagione nella quale faceva caldo e bisognava studiare di più. Emanuela sarebbe rimasta molto sola se non avesse avuto Andrea. Sul principio la notizia dei loro incontri aveva incuriosito le ragazze. Le chiedevano mille particolari, attente, stavano ad ascoltarla in cerchio. Erano venute a conoscenza del carattere di lui, delle sue preferenze. Dicevano a tavola: questo piatto piacerebbe ad Andrea, come se gli fosse fidanzato di tutte. Poi anche questo era passato nella consuetudine, come le conversazioni telefoniche di Vinca. Soltanto Valentina spesso le chiedeva: mi fai vedere la fotografia? E desiderava leggere quelle lettere che gliele scriveva la sera da casa e le dava al mattino, perché Andrea scriveva bene ed erano quelle sue lettere a rendere più lieve la solitudine di tutte. A volte, di sera, Vinca ed Emanuela, affacciate alla finestra, si mettevano a parlare al buio, fumando, benché fosse proibito, godendo di questo sotterfugio. Nel silenzio udivano battere l'orologio della Trinità dei Monti. Le 10! Vinca diceva, e noi siamo chiuse qui dentro. Non potremmo uscire se volessimo. Giù nel vestibolo è buio, il cancello è chiuso a chiave. La suora dorme, certo, con la chiave sotto il cuscino. Hai notato che a mezzo del vestibolo c'è un cancello? Inutile dopo la vetrata d'ingresso, il portone esterno? È un simbolo, forse. Fu la cosa che mi colpì di più appena arrivata. Mi intimorì. Che fa Andrea di sera? Studia. E Luis? Ah, che ne so, credo che esca, sembra che vada in un caffè a parlare di politica. Hai inteso, da noi ricomincia la battaglia. Papà scrive che tra poco lasceranno la casa di città e andranno in campagna. Abbiamo una casa vicino a Cordoba. Se vi ritornerò, dovresti venire a trovarmi. Nel giardino niente altro che aranci. Una casetta, sai, ma carina, perché ci stavano i nonni e vi sono bei mobili di quando eravamo ricchi. Tutti sono stati ricchi una volta, anche noi. Vendevamo arance. È bello, sì, i fiori hanno quel profumo che mette addosso l'indolenza, un profumo che è tutt'uno con l'aria del paese. Luis dice che le cose si mettono male e si continua così, tra poco scoppierà la guerra civile. Pensano a questo adesso invece di studiare. Lui, altri studenti, anche il figlio dell'ambasciatore, vanno a scrivere Viva la Spagna sui marmi dei tavoli al caffè. Bevono e fumano fino a tarda ora e poi al mattino a sonno non studia e perde l'appuntamento con me. Anna e Silvia, che davano la tesi in ottobre, stavano chiuse per ore in biblioteca. Si soffocava là dentro, dicevano. Appena entrate là dentro, le loro voci, senza volerlo, s'appannavano. Era quel silenzio che le opprimeva, quel muto andare dei giovani tra i cataloghi, le schede, quel vederli curvi sui libri. Non sembrava che avessero 20 anni. In casa Belluzzi appena s'accorgevano di Silvia, forse perché quando il professore era nello studio e la camminava in punta di piedi, gli posava le carte sul tavolo, piano richiudeva la porta. Aveva per lui un meravigliato rispetto. Egli era sempre così assorto, così distante dalle cose, che non aveva il coraggio di fargli notare la propria presenza. Stava tutto nascosto dietro gli occhiali d'oro. Andava, veniva dall'università senza neppure vedere le strade dove passava, pieno di ingenue distrazioni. Nella stradetta buia ritrovava il portone di casa per abitudine. Saliva in dignitosa fretta la scala di larghi gradini di pietra grigia, infilava piano la chiave nell'alta porta e seguitava a camminare in casa sua con la stessa aria preoccupata che aveva in strada. Talvolta i pensieri lo arrestavano nel centro dello studio. Nei momenti di più intenso lavorio mentale faceva distinto scorrere il polpastrello del pollice sulle altre dita, come a levigarle. Per molti mesi il lavoro di Silvia sembrò passare inosservato, finché una sera ella entrò, gli mise sul tavolo un fascio di carte dentro una cartella grigia e restò così senza togliervi le mani di su. Egli le chiese: "Che cos'è, signorina, tutta questa roba?" "È il materiale per la conferenza." E intanto pensava: "È troppo, è troppo." Ora si mette a ridere e mi dice: "Quanta fatica sprecata." Il professore si voltò sulla poltrona, assestandosi sul naso gli occhiali. "Ha fatto lei questo?" Silvia si schermiva. "Sì, capisco, sarà insufficiente o troppo o inutile, ma insomma, penso che le servirà. Mi dica lei che cosa devo fare ancora." Egli scorreva i fogli. "Vedremo, le dirò, signorina, vedrò stasera." La ragazza rientrò in casa sconfortata, pensando: "Ci vuole altro per riuscire. Applicazione, la sua buona volontà, un piccolo ingegno, niente più di questo." Restò tutta la sera mortificata. Andò a letto presto, dicendo che aveva male alla testa e forse le doleva davvero. Guardò con commiserazione tutti gli scartafacci della sua tesi e il domani attese impaziente l'ora di andare dal professore perché gliela chiamasse. La chiamò, infatti. L'aspettava accanto alla scrivania, come quando doveva dire cose importanti. "Cara Custo," le disse, "quello che lei ha fatto è eccellente. Dove mai ha trovato tante cose?" "Oh, certo, io non avrei fatto meglio. E mi domando onestamente se sono proprio io a dare questa conferenza e mi trovo a disagio nell'appropriarmi la sua fatica facendola passare per mia, la sua intelligente fatica. Sono contento di averla scoperta io in facoltà all'ultimo banco. Perché si mette sempre all'ultimo banco? Sono contento perché lei farà strada e si ricorderà di me." Silvia non sapeva che dire. Un sorriso incolore le illuminava la faccia, un sorriso di riconoscenza servile di chi dalla nascita è avvezzo alle sottomissioni. Che cosa erano infatti i suoi genitori? Poco più che contadini. Qualche volta, certo, qualcuno che si godeva metà della loro fatica avrà detto anche a loro bravi. Silvia era soddisfatta di quella lode, anche se rimaneva ignorata, chiusa lì dentro tra loro due. Anzi, avrebbe voluto fare di più, promettergli: "Senta, professore, non alzerò più gli occhi dai libri, lavorerò anche la notte, non mi avrà dato questa fiducia invano." Così commossa, fu sorpresa dalla moglie di Belluzzi che entrava con in mano una tazza di tè. Era una donna non più giovane, ma che non voleva smettere di esserlo, molto bruna di capelli, vestita di chiaro, grassa, le braccia bianche rigurgitavano dalle maniche. Sempre guardava con stupore quella ragazzola nera che frugava per ore e ore nelle carte del marito. Silvia la salutava, deferente, senza smettere di lavorare. "È come una bestia in casa," Dora diceva alle amiche, "un vecchio cane." "Non discuto la sua intelligenza, ma così nera, sembra sporca sempre, non so come fa Guido a vedersela d'attorno." Quel giorno Silvia era così commossa che vedendola entrare rimase muta, arrossendo, quasi fosse stata sorpresa in colpa. Il professore, scorgendo la moglie, si rischiarò, uscì dalla sua composta freddezza, si tolse gli occhiali e le andò incontro. "Oh, grazie, grazie, Dora, sempre ti ricordi di me." Aveva in viso una viva compiacenza, per lei soltanto si scuoteva quando la vedeva entrare. E davanti a quella tazza di tè, Silvia sentì che la sua fatica rimpiccioliva. Aveva passato intere notti al tavolino, fregandosi gli occhi per non addormentarsi sopra quel lavoro che non era suo. Vinca dormiva nella camera vicina, quasi le pareva di udirne il respiro regolare. Le dava il contagio del sonno. Allora, per tenersi sveglia, si tirava gli orecchini. Due grappoletti neri di lutto e al mattino si vedevano i forellini infiammati. Le aveva posato sul tavolo tutta quella fatica. "Non è nulla, non è nulla," andava ripetendo tra sé. "Già dimenticato. Anche l'uomo più intelligente si perde davanti a una donna, a un gesto femminile, a quel modo di entrare grazioso e disinvolto, in questa stanza della quale ella non capisce nulla, come se fosse un gabinetto di chimica. Entrare con questo profumo, questa cipria in faccia e la tazza di tè. Ella entra come una donna mentre io sto accanto a lui come un compagno. Non si accorge neppure di non essere più solo quando io entro nello studio. Io sto di qua, dalla parte degli uomini." Silvia, stupita, guardava la signora Dora parlare al marito come se davvero lo amasse. Silvia sapeva che la donna, appena rientrata in camera sua, si metteva il cappello e usciva. Il marito non le chiedeva dove vai. La strada, la gente non esistevano per lui, isolato in quella operosa solitudine. Andava dall'amante lei, ecco, quasi vecchia, andava dall'amante. Spesso telefonava a lungo e Silvia, senza volere, attraverso la parete sottile, aveva udito parecchi colloqui. Chioccolava piano piano con vezzi infantili, sorrisetti, risa sommesse. In quelle conversazioni al professore era rimasto soltanto il pronome lui. Lui è uscito, lui è tornato, appena esce lui. Terza persona singolare, niente più di questo. Prima di uscire portava a lui una tazza di tè e per tutta la giornata a lui ne restava in bocca la dolcezza. Molte volte Silvia aveva pensato di andarsene da quella casa, non poteva sopportare d'essere testimone di quel tradimento. Pensava che ai due dovesse mancare proprio il gusto dell'inganno e che per questo forse si sarebbero stancati presto. Lui non si accorgeva di nulla, era come sgozzare un vitello nel sonno. Silvia penava a tenere questo segreto, talvolta provava il desiderio di dirglielo al professore o almeno raccontarlo alle compagne e sfogarsi di quell'ingiustizia. Dora poteva lasciarlo se voleva, ma non tradirlo. Un uomo come Belluzzi non si tradisce. Era venuta dal nulla. E lo tradiva. Perché non gli diceva ciao, me ne vado, io qui mi annoio. Ma no, non voleva rinunciare alla cameriera con la gallina bianca in testa, al salotto dorato. Avrebbe desiderato sfogarsi, ma poi nulla diceva perché non voleva che dietro le spalle di lui alle lezioni le compagne immaginassero i due che parlavano al telefono dicendosi insulse parole d'amore. Tutta la sala sarebbe stata piena di quelle parole. E anche del profumo che si sprigionava dalla pelle bianca e grassa della donna. Tutte avrebbero visto e avrebbero deriso lui, sordo e cieco, che continuava, con gesti misurati, a commentare i sonetti del 200. Una sera Augusta disse a Emanuela: «Devi studiare stasera, se no ti pregherei di salire su da me o da parlarti». La camera di Augusta risentiva dell'estate. La tartaruga si muoveva per terra sotto la finestra. Erano scomparsi i tappeti sardi, i cuscini e una pianta di ortensia lilla screziata ornava il comò. «Vuoi caffè? Te lo preparo». «Oh, volentieri». Augusta si era messa a trafficare intorno alla macchinetta a spirito, mentre Emanuela osservava le fotografie nelle cornici. Tutti ritratti di gente sarda, facce scabre intagliate nella vecchia pietra dei nuraghe, rilevate da zigomi massicci, sotto le masse compatte dei capelli di un nero forte e selvaggio, come le criniere dei cavalli, il pallore arido, desolato del volto. Volti solcati dalla malinconia secolare di una razza assuefatta a patire, non illuminati ma trafitti dalla cupa intensità degli occhi in cui sembrava riflettersi la disperata tristezza dei pascoli sassosi brucati dalle greggi lanute e percorsi dal brivido delle febbri. «Si sta bene in questa camera, si sente che ci vivi». «Sì, voi altre non pensate che ad andarvene, perciò le vostre sono simili a camere d'albergo. Chi ci lascia qualcosa di sé? Esitate a metter fuori la roba dalla valigia, perché così vi pare di non legarvi a queste pareti, o forse perché non tutte ci patiscono qui dentro». Era proprio vecchia Augusta, si scoprivano nei suoi capelli numerosi fili d'argento. Doveva essere vicina ai 40. Un giorno ella, scherzando, aveva chiesto ad Anna: «Quanti anni mi dai?» «30», la ragazza aveva risposto. E Augusta aveva sorriso: «Sei buona», però senza confessare quanti ne avesse in realtà. «Perché patisci?» «Te lo dirò, t'ho chiamata per questo. Non è possibile che vada avanti così. Tieni il caffè, c'è già lo zucchero, e ho pensato che solo tu avresti potuto capirmi». Emanuela era amica di tutte. Pareva impossibile che la stessa persona che era simpatica a Xenia potesse essere stata tanto amata da Milly e Augusta la chiamasse in aiuto. Forse perché in Emanuela agiva una facoltà intuitiva, rapida e sempre vigile, quella di rivelare ed illuminare di sé a chi la avvicinava, l'aspetto che nell'altro poteva suscitare una concordanza di simpatia. Ed ella si avvaleva di questo mimetismo psicologico, senza avvedersene spontaneamente, come se portasse con sé una forza magnetica che poteva orientare a suo piacimento. Così ognuna vedeva riflessa in questo specchio umano la propria immagine. E seppur lo specchio era di molte facce, ella scopriva soltanto la buona, quella che si animava e viveva di lei. E questo gioco di riflessi era una continua rivelazione anche per Emanuela, la quale vedeva sorgere dal profondo di sé e apparire alla superficie sempre nuovi e fino allora ignorati aspetti della sua personalità. Rischiarata dal di fuori, messa in luce dal suo contatto con gli altri, la sua vera fisionomia le usciva così, a poco e in modo sorprendente, dall'ombra. Ti piace il mio caffè? Continuava Augusta. È buono, vero? Lo faccio da me, perché quello delle suore è sciacquatura di piatti. Ha ragione Vinca, quando dice che quello buono se lo bevono loro. Vorresti un biscottino? Senza attendere la risposta, con diverso tono riprese. Dunque, non ti sei mai domandata cosa faccio io in collegio? E pensare che io tante volte me lo sono chiesta di te. Ma lo sai bene, Augusta, perché fai queste insinuazioni? Sto qui per studiare storia dell'arte perché i miei sono ancora lontani, torneranno alla fine del mese. Ma ti scrivono da Firenze, insomma è un pasticcio. Del resto tutto questo non mi interessa, io esami non ne do, ma siccome sono iscritta alla facoltà, voi credete che studi? Non studio. Nemmeno quando vedete accesa fino a tarda ora la luce, io studio. Oh, per l'amor di Dio, Augusta, e che fai mai? Lei attese un istante prima di rispondere. Qualcosa nel suo viso s'era sciolto, si vedeva che desiderava aprirsi con la compagna e che tuttavia ciò le costava grande sforzo, e disse infine: scrivo. Scrivi? Sì. Che cosa scrivi? Scrivo romanzi, novelle. Questo, e trasse dal cassetto un pacchetto di cartelle minutamente tracciate della sua esatta scrittura. È tutto il lavoro di stanotte. Dici davvero? Certo, è un romanzo, un grande romanzo. E adesso ti confesso tutto. Senti, io patisco, mi logoro e nessuno vuole saperne della mia roba. Forse bisognerebbe avere aiuti, conoscere persone. Non conosci nessuno in Sardegna? Ah, oh, in Sardegna, lì, dopo il fatto della Deledda, ogni donna che abbia una finestra sul monte, una bella cucina e un'aia si mette a scrivere della sua casa e della sua infanzia. Laggiù non si può più ormai. Quella è riuscita perché aveva il dono di Dio. Non era nella Sardegna il miracolo, era in lei. E invece adesso tutte credono che il miracolo sia nella terra, forse io stessa. Ma di che scrivi? D'amore, tutte storie d'amore. Frugava nel cassetto, ne trasse un rotolo di fogli legati da un nastrino. Ti ho chiamata perché voglio leggerti questo, è un racconto, e tu mi devi dire la verità, se ti piace o no. Un mese di lavoro. L'ho mandato a un giornale letterario nel quale si stampano certe ignobili cose futuriste con tanti onori quanti ne avrebbe la commedia. Io ho scritto due volte, sempre occludendo i francobolli per la risposta, e loro silenzio. E anche una parola. E finalmente alla terza lettera rispondono di no, che non è adatto, dicono che gli manca la spina dorsale, come dire che non sta in piedi. Tu sei una ragazza intelligente, tu hai letto, hai viaggiato. Non sei la prima venuta, tu, anche se non fai l'università. Che c'entra l'università? Le altre sono chiuse nel loro mondo impolverato della biblioteca, non capirebbero, non hanno il senso dell'universalità. Ti spiego, voglio da te un giudizio. I giornalisti, gli editori, tutta gente poco seria, stampano per raccomandazione, oppure per incoraggiare lo stile nuovo, certa roba strampalata di gente senza preparazione. E quando capita una cosa buona, sai che fanno? Neppure la leggono. Con che sistema procederanno io non capisco. Giorni fa leggevo questo, guarda, una recensione di 3 colonne sul libro di una donna, perfino la fotografia. Che dovevo fare? L'ho comprato. Lo compro, lo leggo tutto in una sera. Niente. Una storia piatta di una donna e 3 operai. Neppure si capisce bene come vada a finire. Eccoti il libro, guardalo, 12 lire. Uno dei migliori editori. 3 colonne di recensione. E allora, che dice il pubblico? Il pubblico guarda la fotografia e deve dire che sì, tutto questo va bene. Abbiamo capito, è una bella ragazza. Questo stesso editore mi ha risposto che il mio libro non lo può stampare perché per il fatto della cellulosa manca la carta e mi ha rimandato al manoscritto. Deve aver fatto molto comodo in quell'ambiente il fatto della cellulosa. Che puoi dire avanti a un argomento simile? Hai ragione. Adesso ti leggo questo. Snodò il nastrino e mentre apriva i fogli riprese. Tu sempre avrai pensato, Augusta deve essere ben ottusa se neppure prova a dare gli esami. Io dico che gli darò gli esami. Intanto queste ragazze entrano, escono, vanno, tornano al paese, si sposano, fanno e mai più si ricorderanno di me. Ma fino a quando rimarrai qui dentro? Fino a quando avrò fatto qualche cosa? Magari sempre a marcire con le suore, ma in Sardegna ci torno 2 mesi d'estate e basta. I tuoi sanno che sei qui per questo. Lo sanno. E anche se non fosse per questo a casa non tornerei lo stesso. Non si può più tornare. Se i genitori sapessero questo non ci manderebbero in città. Perché dopo, se anche torniamo, siamo delle cattive figlie, delle cattive mogli. Chi può dimenticare di essere stata padrona di se stessa? E poi, per i nostri paesi, dopo essere state qualche anno solo in città, torniamo con la reputazione di donne perdute. Quelle che sono rimaste, che sono passate dalle mani della madre alle mani del marito, non ci perdonano di aver visto cose nuove, nuove facce, di aver avuto la chiave della nostra stanza, uscire, entrare all'ora che si vuole. E gli uomini non ci perdonano di saperne quanto loro. Questo si intende per le giovani. Io sono ormai già matura. Quando mi fidanzai dissero che Loris lo faceva per interesse. Forse avevano ragione. Adesso, non potendo dire che ho una condotta immorale, dicono che sto facendo un fiasco in letteratura. E che ti importa di quel che dicono? Già, bisognerebbe fare così, ma quando si arriva ad essere al di sopra di questi apprezzamenti è segno che molte cose nella vita sono già sfiorite. Quando non si piange più delle sconfitte, è segno che non si crede più nelle vittorie. Che la vita scorre sopra di noi senza farci né bene né male. È vero. E adesso basta, non t'ho chiamata qui per discorrere. La suora gridò nel corridoio, aprì tutte le stanze, violando ogni intimità, e le trovò lì, calme. Augusta, intenta a preparare il lume, e delusa, disse buonanotte, gettandosi sulla porta vicina, da dove udiva partire voci e risate. Augusta attese il brusco distacco della luce, poi restò ferma un attimo, abituando le pupille al fievole chiarore del petrolio. Si raschiò la gola come una cantante e cominciò. Una storia rachitica, come un tema di licenza liceale. Tutto in ordine, i personaggi fotografati, descritti dal colore dei capelli a quello delle scarpe. Un mondo che non oltrepassava il telaio, che vietava le finestre del collegio. Pulito. Lucidato, era proprio un lavoro da zitella, come i merletti a filè. Questa fu l'impressione di Manuela. Eppure, quando Augusta le chiese: Ti piace? Lei rispose gentilmente: Bello. A che sarebbe valso dire la verità? Lo so, è bello, ma lo rifiutano. Dimmi quando è che ti piace di più? Quando dice del fiume. E invece no, in quel punto è poco moderno. La chiusa, invece, ecco, quella è cosa nuova, la chiusa. Ti ringrazio, Emanuela, avevo bisogno che qualcuno sapesse. Un segreto, quando si porta da soli, pesa di più. Adesso tu scendi e io mi metto a lavorare. A quest'ora? Oh, sono appena le 11. È questa l'ora nella quale lavoro meglio, nel silenzio. Mi faccio un altro caffè. Ho bisogno di fare presto. Io non ho tanto tempo avanti a me. A questa novella che sto scrivendo tutte le porte saranno aperte, ne sono sicura. Parlava a scatti, quasi parlasse da sola, ad alta voce, la mente arruffata di parole. È una storia. No, non ti voglio dire nulla. Quando sarà finita, limata, te la leggerò. Andrea gliel'aveva telefonato appena uscito dall'università. Benone, Noela, 30! Emanuela era andata a bussare alla porta di Augusta. Sai, Andrea ha preso 30! Qualcuna l'aveva già saputo in facoltà. Tutte dissero: Bravo, Andrea! Era un mattino afoso, pieno di minacce di burrasca. Ella, che stava aspettando la notizia e guardava ogni poco il cielo grigio, pensava: Adesso piove! E temeva il cattivo presagio. Invece, a mezzogiorno, di tra le nubi basse, si spinsero lividi raggi di sole. Un vento leggero scacciava le nuvole, apparvero chiazze turchine, poi l'azzurro dilagò e invase il cielo. Il tramonto fu bellissimo. Andrea l'aspettava dietro il collegio per la salita che porta a Villa Medici. La vide venire verso di lui a piccoli passi affrettati, impaziente, e quando le fu vicina prese svelta a parlare. Bravo, oh bravo, anche le compagne hanno detto bravo, bravo caro. Egli, senza parlare, la prese affettuosamente per il braccio e cominciò con lei a camminare. prendendo l'andatura lenta della passeggiata. S'avviarono nel grande viale dove altre coppie camminavano avanti a loro, dietro a loro, quasi a far parte di un corteo. A tratti il fruscio delle foglie che percorreva i platani metteva fremiti nel sereno crepuscolo. Sì, sono proprio contento. Infine, egli disse: Così tra poco ho finito. Questo è il penultimo prima della laurea. 30, sono contento, ma sai, l'esame lascia sempre un po' delusi quando va bene. Si studia, poi si esce dall'aula allo stesso punto di prima. Le coppie avanti a loro avevano lo stesso passo molle di processione, tante coppie giù fino al bivio dove un braccio del viale saliva dall'alto del pincio e si vedeva formicolante di ombre nere. E c'era attorno un gran silenzio, si udivano soltanto sotto gli innumerevoli passi cigolare le foglie accartocciate che cadevano di dosso ai platani. Le parole erano appena bisbigliate, qualche volta taciute anche. Ogni coppia era chiusa in un cerchio di completa solitudine, come se la villa fosse aperta ad essa solamente. Di frequente si udiva un grido di ragazzo, ma non si vedevano correre i bambini. Non si capiva neppure dove si nascondessero a giocare. Il sole incendiava le vetrate della città, che rosseggiava bassa sotto il viale, irta di campanili e folta di cupole. Metteva qua e là bagliori di porpora come fuochi d'artificio. Emanuela e Andrea sedettero vicino a una fontana cinta da un emiciclo di Mortella. Qui si sta bene, egli disse. Sembra che sia il giardino di casa nostra. E la ragazza consentì. Sì, dammi la mano. L'acqua scorreva soffice come da una polla su di un prato, un rumore ovattato, sommesso. Quando io e te avremo una casa, voglio avere un giardinetto così, con un rumore d'acqua. Oggi, per quest'esame, la nostra casa mi sembra più vicina. Eppure penso che il giorno della laurea mi sentirò come oggi, contento ma inutile. Non potrò presentarmi in un ministero, per esempio, e dire: Guardi, io sono quello che ha preso la laurea questa mattina. E lì allora tutti si alzano, corrono a me, mi mostrano una stanza in bello stile falso rinascimento e mi dicono: Ecco, si sieda, quella è la sua poltrona, l'aspettavamo. No? Andare a insegnare non so dove, con quello stipendio che ti darei da mangiare, moglie. Rideva. E poi proseguiva serio: Rifacciamo i conti, Emanuela. Il giorno se ne andava con indolenza. Gente passava senza guardarli e gli diceva 500 la casa. E seguitava addizionando, ma sempre concludeva: Anche rinunciando tu al salotto, io alle partite di calcio e alle sigarette, non possiamo fare a meno di 2000 lire. E non possiamo privarci di queste cose. Dopo poco la vita in comune ci diverrebbe insopportabile. E allora 2500. Tramete. Va bene. E se poi mi fa male un dente, devo farmelo tirare? E se tu vai a farti la permanente? Ti prego, Emanuela, non mi ripetere che tu hai il tuo denaro. Appunto per questo io devo avere il mio. E allora il problema è insolubile. Non deve essere solubile, invece, perché io non rinuncio alla gioia di bussare a una casa sulla quale sia scritto il mio nome. Né a quello di vederti venirmi incontro sorridendo, di sentire rientrando l'ottimo odore di arrosto, vedere la tavola apparecchiata per due, il dottor Lanziani e sua moglie, uno di qua e uno di là. Ma penso per contro a tanti miei amici sposati che fanno la fame. Loro hanno gli occhi tristi, la moglie ha gli occhi tristi, il ragazzino è pallido e ha gli occhi tristi anche lui. No, credi, è terribile. Siamo stati abituati bene, io e te. E allora? Allora ti puoi immaginare la faccia di papà stamani a tavola quando lui si congratulava con me dell'esame e io gli ho detto: Sì, va bene, sono molto contento, ma dopo la laurea vengo a lavorare a negozio con te.